Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? Bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che oggi parla di una figura che è stata la prima grande rivoluzionaria nella pedagogia italiana, nell'istruzione dei ragazzi. Parliamo di Maria Montessori, una figura che nel proprio del secolo comincia a studiare pedagogia, salvo poi mettere a punto un metodo che rivoluzionerà completamente gli schemi allora presenti nelle scuole, in particolare quelle dell'infanzia povera. Uno schema che la porterà a portare il suo metodo in 60.000 scuole nel mondo, in particolare nel mondo anglosassone, ma non solo, che la fece anche in un primo tempo coesistere col regime fascista, ma poi quando venne considerata troppo libertaria nell'insegnamento, lei nel 1934 dovette uscire dall'Italia e riparare all'estero. Naturalmente con la liberazione si ritorna nel nostro paese e si aprono importanti sperimentazioni nella scuola anche italiana. Per comprendere la fatica anche e il coraggio di certe sperimentazioni a favore dei ragazzini, sentiamo con l'intervista di Morena Moretti Cinzia, che è figlia di una maestra montessoriana che ha vissuto proprio a fianco della Montessori stessa, e ci fa capire la differenza ancora a fine anni 50, anni 60, nelle aule in cui si segnava col metodo di Montessori e quelle in cui si segnava col metodo gentile, quello apprezzato dal fascismo. Una fatica che continuerà anche negli anni precedenti e che purtroppo torna alla ribalta con vecchi schemi scolastici ampiamente superati ottocenteschi che stanno al nome del ministro Valditara. Quindi la trasmissione comincia con questa intervista di Morena a Cinzia, che ricorda appunto i suoi anni di gioventù e l'operato di sua mamma. Siamo con Cinzia Masella. Ciao Cinzia. Ciao. E parliamo di tua madre. Tua madre, Concetta Rosoni Dettatina, sì, fu un'insegnante montessoriana a Roma ed ebbe il privilegio, possiamo chiamarlo così, di essere stata allieva di Maria Montessori. Ci racconti un po' questa storia, come tua madre è riuscita ad essere un'allieva proprio della Montessori. La mia madre, per collocarla nel tempo, nasce nel 1912 e, finita la scuola di avviamento a Roma, la sua preside, a quei tempi direttrice si diceva, invita mia nonna perché le vuole comunicare che questa ragazza va molto bene a scuola e quindi non è caso di farla smettere, come accadeva per tutte le donne purtroppo, perché mentre mio zio poi fece, addirittura si è laureato in legge, però secondo mia nonna, secondo la cultura del tempo, le donne, ha finito l'avviamento, come mia zia, smettevano di studiare. E questa direttrice invece, culturalmente elevata, era una scuola vicino al Pantheon, mi sembra fosse la Gianturco, e le disse, cioè, ma guardi, c'è una nuova pedagogista, non so se a quei tempi la chiamassero così, insomma, insegnante, una scienziata, una dottoressa, dicevano, ecco, una dottoressa, che ha aperto una scuola per insegnanti, parliamo del 1926, si chiama Maria Montessori, sicuramente negli ambienti culturali elevati era conosciuta, ma non a mia nonna, però abitando in quella zona per mia madre, in Prati, le tornava anche molto utile, perché non è che a quei tempi era molto facile muoversi dentro Roma, e quindi mia nonna la iscrisse in questa scuola. E in quel tempo però Maria Montessori viaggiava molto, quindi mia mamma sempre mi raccontava che non è che l'ha vista molte volte, cioè non era presente nella scuola, ma era presente la direttrice, che si chiamava Federici. Maria Montessori era la direttrice, nel senso che firmava tutto, io ho gli atti di mia madre firmati da Maria Montessori, però infatti sono andata a controllare la vita di Maria Montessori. In quel tempo viaggiava molto con la Spagna, andava avanti e indietro in Spagna, quindi era presente e non presente, e aveva già Maria Montessori formato delle insegnanti che tra queste, questa Maria Federici, che erano in grado di poter a loro volta avere degli educatori allievi, da formare, insegnare quindi quello che poi fu chiamato, sì, il metodo Montessori ad altre, sì, ragazze, sì, sì, e ragazzi, sì, che avrebbero poi insegnato con questo metodo. Ma questo che dice è molto interessante, perché la scuola di formazione montessoriana, questa probabilmente è la prima, non è tanto raccontata neanche, sì, se è andiamo vero a cercare in internet non si trova. La cosa molto particolare di questa scuola era che questa scuola era una scuola sperimentale, e quindi aveva sia le classi con i bambini che erano frequentanti, sia con queste insegnanti che facevano tirocinio e teoria contemporaneamente. Quindi una cosa molto importante è la struttura, aveva un ballatoio in alto e un ballatoio. Su questo ballatoio mia madre dice che in alcune date, chiaramente non tutti i giorni, venivano ricevute personalità molto importanti, ambasciatori, mia madre diceva principesse, che la colpiva, pensiamo sempre alla cultura del 1930, di altre nazioni. A quei tempi a Roma neanche si vedevano persone anche di pelle di altro colore, e quindi lei diceva persone dall'India, persone dal Sud America più che altro in quel periodo, dall'Olanda, dall'Inghilterra, personalità importanti, facoltose e culturalmente elevate, che venivano ad osservare intanto come si svolgeva proprio l'attività tra l'insegnante e la classe, e i bambini. Poi ho detto classe, ma lo dico tra virgolette, per la Montessori non esistevano le classi, quindi il rapporto tra l'insegnante, i bambini e il metodo, che è fondato sul materiale montessoriano, che è fondamentale per lo sviluppo psicologico del bambino. Erano visite che venivano queste personalità per verificare poi com'era il metodo in pratica, sì, e poi veniva, è stato effettivamente esportato, quindi certamente una scuola, sì, sperimentale. Poi, sì, tua madre è stata un'insegnante appunto Montessori, ha usato sempre questo metodo, sì, in tutta la sua carriera. Sì, sì. Dal 33 al 34 per 2 anni diventa insegnante lì dentro, sempre in questa scuola sperimentale, proprio insegnante effettiva, non più come, certo, una tirocinante, non, certo, più come alunna tirocinante. Quindi inizia la sua carriera lì e poi dopo… La sua carriera lì, e mia madre racconta questa cosa divertente, che diceva: io guadagnavo 1.000 lire al mese, come si dice la canzone. Quindi erano per anche mamma, tanti. Tantissimo. Che disperazione, che delusione dover campare, sempre in disdetta, sempre in bolletta, ma se un posticino domani, cara, io troverò di gemme d'oro, ti coprirò. Se potessi avere 1.000 lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina giovane, carina, tale quale come te, se potessi avere 1.000 lire al mese, farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Ho sognato ancora stanotte amore e serenità, d'un zio lontano, americano, ma se questo sogno non si avverasse, come farò? Il ritornello ricanterò. Se potessi avere 1.000 lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina giovane, carina, tale quale come te, se potessi avere 1.000 lire al mese, farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Io stessa ho riscontrato una preparazione in mia madre che le maestre preparate alle magistrali per insegnare alle elementari non avevano. Perché quando io mi sono confrontata nelle scuole con le insegnanti delle elementari, non per sminuire nessuno, ma perché avevano adesso ragiono, avevano una preparazione magistrale gentiliana, quindi già fascista, sì. E non avevano questa preparazione montessoriana che era scientifica. Diciamo che tutta la parte legata alle nuove teorie pedagogiche entra dopo nelle scuole magistrali. Sì, non dopo, ma dopo. Cinzia, quindi tu in questo rapporto con questa madre montessoriana hai potuto vedere proprio da bambina i metodi che lei usava, sì. Cioè tutta la didattica, ecco. Sì. Ci puoi raccontare qualcosa di questo? Poi, sì. Che cosa ricordi del suo metodo, ecco? Sì. Nel 35 chiude la scuola montessoriana. E per fortuna di mia madre nel novembre del 35 esce un concorso al Comune di Roma, quindi mia madre vince questo concorso e si aprono queste scuole materne che penso che prima proprio non esistessero. E quindi mia madre, lei continua ad usare il metodo montessoriano nella scuola pubblica, con delle difficoltà durante il fascismo, mi ha detto, doveva comunque nascondere il materiale, finito il fascismo lei ha tirato fuori il materiale, però ha sempre usato il metodo Montessori, era stata formata in quel modo, non poteva fare altrimenti. Che cosa ricordo? Ricordo tutto, perché stavo in classe con mia madre e poi l'ha sempre aiutata tutte le volte fino stavo lì dentro, però vi parlo dell'era post-fascista, perché io sono nata nel 54. Mia madre si organizzava, nonostante non avesse la struttura della scuola montessoriana, che è fondamentale, il mobilio, mobili piccoli, tavolini piccoli, cioè tutto l'arredamento, certo, per la Montessori, sì. Deve essere a misura del bambino. Questo nella scuola comunale non c'era. E allora lei organizzava con quello che aveva e quindi metteva dei tavoli tutti in fila al centro della classe e disponeva tutto il materiale su questo tavolo tutto lungo in mezzo alla classe e poi metteva i banchi a due, quindi creava dei piccoli gruppi e con questi piccoli gruppi i bambini si alzavano e usavano il materiale e lei li seguiva, perché diceva mia madre la cosa fondamentale che lei ha imparato è che l'insegnante non insegna nulla, l'insegnante non trasmette la disciplina, ma l'insegnante è un osservatore e una guida dello sviluppo sensoriale ed emotivo e intellettivo del bambino. Quindi lei diceva, io non sono una maestra, io sono una guida, ripeteva sempre questa frase, io ti guido ad apprendere. E sempre la sentivo anche quando discuteva con le colleghe. Ai bambini non si insegna, lei diceva. Poi quello che ricordo proprio a livello proprio emotivo, che quando io entravo nelle altre classi rimanevo inorridita, cioè tu immagina un lungo corridoio, era una scuola quella classica tradizionale come struttura architettonica, sì. Con tutti i corridoi circolari, molto bella, quando ero bambina era moderna ancora, costruita durante il fascismo, e quindi con tutti questi corridoi, bella perché era nuova, e io entravo nelle altre classi e rimanevo inorridita, cioè non inorridita perché quando hai quell'età non esprimi un giudizio, ma vedevo la differenza, cioè tutti i banchi in fila, il bambino della materna tenuto, parliamo del grado preparatorio, si chiamava a quei tempi, bambini del grado preparatorio, quindi parliamo dai 3, a quei tempi venivano presi a 4 anni, dai 4 ai 5 anni, quindi prima della prima elementare, seduti nei banchetti, tutti messi in fila, la maestra sulla cattedra, seduta, bloccati nei banchi, cioè poverini tenuti, io li guardavo e mi facevano pena. E questa è un'immagine che abbiamo un po' tutti nei nostri ricordi, perché chi di noi ha fatto appunto quello che viene chiamato l'asilo, esattamente questo faceva, stava già 4 anni in un banco e poi c'erano questi metodi un po' rigidi. La tua madre, sì. Che è riuscita a insegnare in questa scuola con il suo metodo, quindi ha avuto, sì. Poi in definitiva qualche dirigente che le ha concesso, perché a volte poteva anche succedere che non venisse, sì. Neanche concesso la possibilità di usare altri metodi. Infatti ricordo che in quella stessa scuola, tua madre l'ha incontrato, insegnò anche il maestro Manzi, che, sì. Anche lui aveva un metodo molto diverso da quello dell'impostazione tradizionale. Nel periodo in cui ero io bambina c'era questo direttore Gammaitoni, ancora ricordo ricordo il cognome perché, a parte mi sembrava una persona illuminata, lo diceva anche mia mamma, ma poi ho conosciuto le nipoti, pensa, adesso, e quindi era comunque una persona di pensiero culturalmente avanzato. E appunto mia madre fu libera, perché durante il fascismo il materiale l'ha tenuto sempre dentro casa, e pensa, ci sono state le guerre, quindi lei diceva che faceva di tutto per conservarlo, lei adorava questo materiale, era suo personale, l'aveva comprato. Quindi non gliel'aveva dato nessuno, se l'era comprato, e quindi lo teneva gelosamente in casa durante tutto il fascismo. Dopo ho avuto, ricordo questo direttore, e ricordo, posso dire, la differenza. In questa scuola esisteva sia chi insegnava con metodi antichi e sia evidentemente chi con metodi attuali. Quindi c'era questa convivenza. E tua madre ha avuto anche rapporti con Alberto Manzi in quel periodo? Sì, Alberto Manzi insegnava alle elementari, mamma al grado preparatorio. Io mia madre me la ricordo un po' come l'intellettuale di della scuola materna. A quei tempi veniva, purtroppo ancora oggi in alcune realtà, considerata una cosa a parte, cioè gli insegnanti delle elementari non parlavano con gli insegnanti della scuola materna, ritenendoli dei poveri ignoranti, perché di fatto era così, spesso erano insegnanti che uscivano dalle associazioni cattoliche, capito? Quindi loro si sentivano con un diploma, e quindi però non c'era un rapporto. Infatti l'unica che avesse un rapporto, io ne andavo molto fiera, mia madre parlava con il direttore, mia madre parlava con Manzi, ricordo questo maestro Aureli, me la ricordo sempre a far parte di questa scuola che tu giustamente mi hai detto forse molto avanzata. Ed è vero, perché poi io ho fatto l'elementare in questa scuola, non con Manzi, perché Manzi c'era ancora, no, femminile e maschile, e Manzi insegnava ai maschi. E quindi, facendo questa scuola, noi avevamo i corsi di pomeriggio, pensa, noi rientravamo a scuola, chi voleva, e facevamo teatro, musica. Se tu pensi, io ho fatto le elementari dal 60 al 65. E noi avevamo già una scuola come oggi, cioè avevamo il cinema dentro scuola, quindi andavo al cinema, avevamo una biblioteca, facevamo teatro, musica, canto, il pomeriggio. Questa sveglia, che disastro! Forza che siamo in ritardo! Prima mangio, poi mi preparo! Beh, ti ho fatto già lo zaino! Suona la campanella! Buongiorno San Giovanni! Spero abbiate studiato! O vi boccio tutti quanti! La preside è stupenda! Voi state zitti e bravi! Il prof è innamorato ed è distratto, non può interrogarci! Facciamo insieme uno scherzo alla maestra! Attenta, c'è la preside che spia dalla finestra. Stanno portando Alessio fuori dalla nostra classe. Oh, che rabbia, guarderà le altre ragazze. Sono a casa. Com'è andata? Stanca. Non è giornata. Studio duo al posto mio. I compiti li farò io. Ma in che cosa consisteva il metodo Montessori e quale fu l'impatto proprio rivoluzionario ai tempi in cui cominciato a predicare la sua pedagogia nel mondo? Ce la racconta Vivian in questo pezzo tratto dalla rete. Gli interessi della giovane Maria passarono dalla medicina sociale al trattamento dei disturbi mentali, fino alla cura dei bambini con questi disturbi. Fu colpita soprattutto dalle condizioni miserevoli in cui vivevano questi bambini. Ma chi erano i bambini frenastenici? A quei tempi bastava poco per far finire un bambino in un istituto per disturbati mentali. Bastava essere povero e abbandonato a se stesso. Un bambino lasciato in uno stato di degrado spesso non riusciva a sviluppare le proprie capacità e il proprio carattere come gli altri bambini, arrivando così ad essere definito frenastenico, impossibile da educare e confinato in un istituto di accoglienza. Un bambino che presentava certi disturbi sociali o di apprendimento veniva incasellato in una categoria dell'oligofrenia, che presentava tre livelli di gravità. Il più lieve era considerato imbecillità, poi il ritardo mentale, infine il più serio era l'idiozia o idiotismo. Per attribuire il livello di disturbo venivano analizzati molteplici elementi, come i tratti somatici, lo stadio del linguaggio, la capacità di giudizio, la capacità mnemonica o la forza di volontà. La scuola era modellata sulla società dell'epoca, che era fortemente capitalista. Vigeva una disciplina rigida e crudele, volta a preparare i bambini a ciò che li aspettava nel mondo, obbedienza e conformità. I soggetti che non si attenevano agli obiettivi pedagogici venivano scartati e molti confinati nei centri di accoglienza, dove trascorrevano le giornate praticamente senza far nulla. Una mattina, Maria Montessori, in una delle sue visite ad un asilo, fu accompagnata in una stanza dove erano rinchiusi dei bambini considerati deficienti. La stanza era priva di stimoli e gli unici eventi della giornata per quei bambini erano i pasti. Finito di consumare il cibo, i pargoli si gettavano sul pavimento raccogliendo le briciole di pane. Con le dita le accarezzavano e le portavano alla bocca. Questo comportamento non era dettato dalla fame, ma dalla mancanza di stimoli. Quelle briciole erano gli unici oggetti di svago nella loro esistenza. Maria Montessori ebbe la dimostrazione che la mente di quei bambini desiderava impegnarsi in un compito. Quelle briciole di pane davano loro l'unica occasione di servirsi della mano e del pollice. Intuì che i piccoli avevano bisogno di fare, di stabilire un contatto con il mondo. Erano isolati e cercavano di sviluppare il corpo, la mente, la personalità. Vide che nei loro occhi c'era la fiammella di intelligenza che c'è in tutti gli uomini e decise di alimentarla. Capì che il loro problema non era medico, ma pedagogico. Alla fine dell'Ottocento si credeva che i bambini frenastenici avessero handicap psicomotori a causa esclusivamente di carenze biologiche. Maria intuì che l'origine biologica non era la sola responsabile dei loro problemi psicofisici, ma vi erano anche cause sociali, ambientali e storiche del disagio mentale, dovute soprattutto alle pessime condizioni di vita. C'erano situazioni igieniche precarie, miseria fisica e morale. L'ambiente misero della campagna e della città, lo sfruttamento della classe proletaria, l'ignoranza e l'analfabetismo erano caratteristiche di un ambiente che favoriva la degenerazione fisica e morale anche di bambini normalissimi. E non solo dei bambini. Dietro a un bambino sporco, malato, affamato, sfruttato, c'era una famiglia sporca, malata, affamata, sfruttata e prima fra tutti una madre. Le cause che facevano degenerare i bambini anormali erano le stesse che impedivano uno sviluppo sereno della personalità dei bambini cosiddetti normali. Era la società a essere deficiente, a giacere in un'ignoranza secolare, costretta a raccogliere briciole e condannata all'inedia. Maria introdusse i bambini in un ambiente che li stimolasse e li sviluppasse intellettualmente e fisicamente. Nacque così il suo metodo, una pratica educativa attraverso la quale il bambino frenastenico, sottoposto a stimoli continui e invitato a compiere lavori manuali e intellettuali, acquisiva competenze professionali attraverso le quali sarebbe divenuto utile a sé e alla società. Riuscì a far sostenere loro l'esame di Stato, non in classi speciali, ma insieme ai loro coetanei normali, sottoponendoli alle prove di lettura, scrittura e aritmetica. Qualcuno di loro risultò persino più bravo dei cosiddetti bambini normali. Davanti alla scuola, tanta gente, otto e venti, prima campana, e spegni quella sigaretta. E migliaia di gambe, di occhiali, di corse sulle scale, le otto e mezza, tutti in piedi, il presidente, la croce, il professore, che ti legge sempre la stessa storia, nello stesso modo, sullo stesso libro,